the moon. Fill my heart with song. Fammi me volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. Qua la sola cura riempire il mio cuore con musica pura. Fammi volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. La sola cura riempire il mio cuore con musica pura. E adesso vola, non pensarci tanto, via l'incarto, strappalo. Butta l'amarezza dentro un sacco e scappa in alto quanto ti basta per vedere il tuo traguardo, un salto che a guardarlo pensi cazzo. E se mi capita che inciampo tanto, non so che perdermi più qui, mi resta solo un beat e pile di CD sparsi nell'auto tra gli aprema chic. Ho perso tempo e lo riprendo come posso, sì. Stacco al lavoro e becco i ragazzi per la Posse Street. Non so perché un quarto di vita ti senti più viva, ma in una matita e tutto si ravviva. Sai, respira ogni mio poro sulla pelle. Sotto queste stelle riempio foglie e file. Le vicende non sono sempre belle, perché poi tanto già lo sai che se scrivo infatti dai un sospeso fatti di cui non ti ho detto mai. Affetta da una strana sindrome, vuoi la mia sindone, l'hi-fi che spinge, mi copre di note singole. Fly me to the moon. Fammi volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. Feel my house song. Qua la sola cura riempire il mio cuore con musica pura. Fly me to the moon. Fammi volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. Qua la sola cura riempire il mio cuore con musica pura. Adesso spegniti e rilassati, dipingimi un mondo senza più spigoli. Illumina gli stimoli, ho piccoli lividi. Percorrono la schiena coi piccoli brividi, coi peli dritti che paiono pelli bipedi. Dimmi di non cambiare strada, ma non posso prometterlo. Ho già detto basta, ma raggi infossi da metterlo. Ci sbatto il naso e poi mi pento da tempo. Ho perso ogni sponda e corro lo stesso per non cadere in mille sere nere. Ora cammino serena, chissà se il piede tiene bene. Benedico ogni singolo vincolo che adesso ho vinto dal buio del vicolo. Sai, ho trovato il mio antidoto vivido. Ho trovato il mio antidoto vivido. Fammi volare, fammi volare, fammi volare, fammi volare. Fammi volare su. Fly me to the moon. Fammi volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. Feel my house song. Qua la sola cura riempire il mio cuore con musica pura. Fly me to the moon. Fammi volare sulla luna, con tutte le stelle là in tribuna. Feel my house song. Qua la sola cura riempire il mio cuore con musica pura. Fly me to the moon.